Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Si avvicina. Sentiamo con la musichetta. Manca solo una settimana. Però io già mi immagino il camino. Ma c'è già la una bella coperta, caldo. C'è Milano tutta addobbata. Pigiamoni, bei film di Walt Disney, pure i bei film quelli il piccolo in bianco. Lord. Sì, piccole donne, tutti piccoli. Beh, insomma, signore e signori, si avvicina sempre di più il Natale, manca solo una settimana. Vi terremo compagnia, io e Rosita Celentano, leggeremo qualche vostra mail, vi daremo delle notizie fantastiche, avremo anche degli ospiti molto, molto divertenti. Divertenti, ma anche... Interessanti, ci daranno qualche informazione sui nostri amici animali per rendere un Natale migliore anche loro, no? Eh sì, assolutamente sì, cercheremo insomma di... Allora, partiamo a proposito con una mail che ho ricevuto, Angelo, che è riferita proprio a te. Egregio signor Vaira. Egregio, riguardo al fatto... Sottolinea egregio. Egregio, esatto. Riguardo al fatto che le pettorine non facciano male alle articolazioni anteriori dei cani, concordo per quelle ad H e per quelle norvegesi svedesi, mentre sarebbero da evitare quelle ad X, appunto, per i danni alle articolazioni. Cordiali saluti, Enrico Salvioli. Ciao Enrico. Allora, Enrico dice le cose, che sai che le pettorine sì. In Italia praticamente le sono state diffuse attraverso il Think Dog. E allora sì, concordo con questa cosa, sebbene devo dire non c'è nessuna ricerca scientifica a riguardo, cioè non c'è ricerca scientifica che dimostri che alcuna pettorina faccia male. Diciamo che quella ad X, che si chiude come una X sulle scapole del cane, è un po' più scomoda perché lascia lavorare la scapola un po' meno, mentre la pettorina ad H invece... rende il cane più libero, quindi grazie della segnalazione. Però invece ci sono, voglio dire, ricerche precise su quanto invece facciano male i collari. Assolutamente, tra l'altro notizia recente pubblicata, noi la riprendiamo dal blog del nostro amico Guido Minciotti, che scrive proprio per il Sole 24 mm-hmm. Ore. E la Cassazione dice no al collare elettrico che dà la scossa ai cani e maltrattamento. Cioè la Cassazione ha confermato una sentenza già preesistente dando una multa ad una persona che aveva utilizzato il collare elettrico sul suo cane, perché voglio ricordare che purtroppo... Vabbè, collare elettrico, cioè, non dovrebbe neanche esistere. Ma la reazione è di chiunque, dice ma come collare elettrico? Cioè è possibile che c'è ancora sta roba del collare elettrico? Vi dico sì, state attenti ai campi di addestramento che frequentate, ai negozianti che vi propinano queste soluzioni qua, perché sono contro la legge. Auspico un giorno che non possano neanche essere venduti. Non devono nemmeno essere prodotti. Rivolgetemi invece ad un bravo educatore cinofilo, così che possiate risolvere i vostri problemi. Soprattutto se voglio portare il cane in gara, certamente non uso il collare elettrico come purtroppo fanno alcuni addestratori. Bene, perché sennò io inizio a fare richiesta che i collari elettrici vengano messi ai padroni di cani che vogliono mettere il collare elettrico, ok? Esatto. E non necessariamente sul collo. Esattamente, che lì dà anche più fastidio, che voi siete molto più sensibili più che sul collo. Andiamo avanti, che si avvicina Natale, non dobbiamo dire schifezze. Allora, è arrivata un'altra mail molto carina, molto divertente, di questa Anna, non so se Anna ha dimenticato la finale oppure si chiama proprio Anna, una signora deliziosa che ci racconta di questo cagnone che c'ha suo fratello. Uh-huh. Sono visti in una piazza. Che ha semplicemente un anno. Sì, si sono visti in una piazza dove abitano loro. Lei si sorprende perché dice: noi facciamo fatica da una parte all'altra della piazza con tutta la gente a vederci. Dice: ma a un certo punto il cane, appena mio fratello lo libera, va al galoppo, passa attraverso tutto e tutti e arriva da noi, ci fa grandi feste. E lei dice: ma com'è possibile con così grande distanza? Dice: una cosa pazzesca, ha sentito il nostro odore, ci ha captati. Lei dice: come fa a sapere, a vederci, a riconoscerci così proprio a colpo sicuro? Il cane ha preso evidentemente tanta familiarità con loro. Io non so se è riuscito a sentire addirittura l'odore, no? In mezzo a tutta quella gente o a riconoscere, però... E anche questo è possibile e li ha riconosciuti. E ragazzi, io non so darvi una spiegazione esatta, fatto sta che per via empirica sappiamo che il cane li ha riconosciuti, ha visto bene anche da lontano. I cani, voglio ricordare, vedono molto meglio il movimento, no, che i contorni, perché sono dei predatori, però riescono a fare anche queste cose, pazzesco. Ma i cani riescono anche ad anticipare, Tu dici sempre che noi siamo. Angelo mi dice sempre che noi siamo in debito verso i cani. Siamo in debito perché c'è nella teoria, per esempio, della coevoluzione, noi siamo in debito con loro, abbiamo un debito storico perché hanno agevolato tanto la nostra esistenza. Cioè, senza di loro ci saremmo evoluti in un modo diverso, forse non saremmo neanche riusciti a diventare quello che siamo oggi. E tu pensa se potessimo chiedere a un cane quanto gli siamo serviti noi a loro, che cosa potrebbe risponderci? Beh, risponderebbe tanto anche il cane, perché il cane non esisterebbe. Cioè, il cane non esisterebbe se non ci fosse stato l'uomo. Si parla proprio di coevoluzione, ne parleremo prima o poi con qualche ospite. Bene, allora mi raccomando, preparate, come si dice, preparatevi a questo Natale. Uno dice sempre che per Natale dovrebbe diventare più buono, io dico che bisognerebbe essere più buoni ogni momento della propria vita, non aspettare solamente il Natale, però possiamo dire che il Natale, magari prendendo anche una pausa dalla vita frenetica, dal lavoro, dalle preoccupazioni, ci concede un pochino di relax, e magari nel momento di pausa e di relax uno, come si dice, fa un po' un bilancio, no? Tira le somme, poi ci si avvicina a fine anno, quindi tiriamo delle somme e facciamo in modo che buoni propositi proseguano e siano sempre di più. Detto ciò, vi ricordo sempre di scriverci a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché come vedete noi leggiamo le mail e vi rispondiamo sempre. Vi ringraziamo fra l'altro della stima che ci date e facciamo un attimo una pausa e ci risentiamo tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, io vorrei subito parlare di una cosa che a me, di un'iniziativa che a me piace tantissimo. Io in realtà non conoscevo questo famosissimo comico francese che si chiama Rémi Gaillard. In realtà lo conoscevi, ti ho fatto vedere qualche video suo, perché è un mio mito. Cioè, questo è una star del web, perché fa video divertentissimi. Tipo, ti ricordi Elevator, che lui si vede in questo ascensore, che la gente va, chiama l'ascensore, si aprono le porte, poi si vede uno seduto ad un tavolino che sta mangiando dentro l'ascensore. Era lui. E poi arriva una cameriera che versa dello champagne. Ah, vabbè, non l'avevo collegato. È lui. Comunque lui ha una grandissima sensibilità verso gli animali, ovviamente, quindi si prodiga tantissimo a cercare di aiutare i canili ad avere la giusta pappa, le cucce, tutto quello che serve appunto ai canili che non riescono a sostenersi da soli. E adesso ha deciso, l'11 di questo mese, si è chiuso dentro in gabbia in un canile, d'accordo con un canile, e ha detto che sarebbe rimasto dentro almeno per 87 ore, o comunque voleva rimanere dentro o fino a che non si raggiungeva la cifra attraverso le donazioni di volontari di almeno $50,000, oppure fino a che non si sarebbero adottati almeno 300 cani. Sembra che ad oggi, ci sono stati i media che l'hanno intervistato, se si va sulla sua pagina Facebook, quindi di Rémi Gaillard, scritto Gaillard, se si va sulla sua pagina Facebook c'è proprio un video che documenta queste ore, dove sembra che si siano raccolti più di 100,000 euro. Fantastico. Si è fatto intervistare dal TG regionale francese, insomma no, regionale francese, quello più importante. Lui ha avuto anche momenti di sconforto perché si è messo a piangere, andava lì la gente, hanno adottato anche dei cani. E ti dico adesso in diretta vis-à-vis che non è detto che prima o poi non faccia una cosa del genere anch'io in Italia. Lo stavo pensando anch'io. E qui, perché secondo me veramente la gente deve assolutamente capire, perché lì loro, lui si è tenuto un sacco a pelo per coprirsi la notte, perché adesso fa freddo, è inverno, però si è comportato esattamente come trattano i cani dentro il canile. E io ti dico che un mio amico che si chiama Fausto Vighi, la notte di Capodanno di qualche anno fa, si è chiuso in gabbia con i cani e ha raccontato poi la sua esperienza. Lo intervisteremo magari su questo. Sì, perché bisognerebbe, visto che la nostra trasmissione si intitola Chiedimi se sono felice, il mondo della prospettiva animale, per capire la prospettiva animale dal punto di vista di un animale che viene torturato, che viene tenuto rinchiuso, che viene maltrattato, devi fare la stessa cosa. Quindi quando io, tesoro mio, auguro alle persone che gli capiti esattamente quello che loro fanno agli animali, è perché forse da quel punto di vista inizieranno a capire. Se muoiono non capiscono più nulla. Allora no, parliamo di cose divertenti. Andate a vedere su YouTube i video di Rémi Gaillard, scritto con due L, Gaillard. Gaillard, vedrete anche un simpatico video in cui loro, Rémi Gaillard e i suoi amici vestiti da animali, vanno a riprendere le persone dietro le vetrine. Sembra che loro stiano un po' allo zoo a osservare le persone, poi le cavalcano sulla spiaggia. Sì, come perché fosse lui, voglio dire, è un comico, quindi vuol dire attraverso anche una risata sensibilizza la gente, però a volte se con le risate, con le modi dolci non si capisce, lui in prima persona ha voluto mettersi dal punto di vista di un cane rinchiuso in un canile. Io la trovo veramente un'azione amorevole. In questi giorni di feste sapete che c'è il wedding planner, cioè praticamente la persona che wedding planner sono quelli che organizzano i matrimoni. I matrimoni, esatto. Allora abbiamo anche il pet party planner, che è praticamente la persona che ti organizza il compleanno con gli animali, ed è qui con noi Sara Ricci. Ciao Sara. Ciao Angelo, ciao. Ciao Sara. Ma ciao. Insomma, questa cosa un po' pazza e un po', sì, è un po' fuori dalle righe, tu dici che insegna anche qualcosa, no? Cioè tu la usi anche per veicolare dei principi. Sì, sì, infatti guarda, mi ha fatto tantissimo piacere ascoltare questa news che avete appena dato, perché una cosa che mi è venuta in mente subito, a parte la bellezza del gesto di quest'uomo che ha fatto, meraviglioso, ma io che sono un po' pazza, la prima cosa che farei sarebbe, dopo che lui ha raggiunto i $50,000 eccetera eccetera, fare la grande festa. Ma guarda, lui sembra che sia andato, che sembra che oggi abbiano raccolto molto di più, poi wow, io adesso poi non parlando bene il francese ho cercato di capire fra le righe, andrò a documentarmi meglio nelle prossime puntate e vi farò sapere. Sembra che abbia raccolto molto di più in realtà. Senti, ma per chi ci ascolta, uno si immagina il party di un cane con magari una torta che non è fatta di panna montata ma di altro, ma io immagino che un party non sia contraddistinto soltanto da una torta con una candelina, no, e soprattutto non si tratta di travestire il cane, ecco, da bambino, bravo, e fargli soffiare dicendo sulle candeline. No, e soprattutto esprimi un desiderio. No, e soprattutto Sara, stavo pensando, non so se ti è capitato di vederlo al programma Nemo, Nessuno Escluso, che hanno fatto vedere queste folli signore che non solo conciano i cani in un modo veramente deplorevole, ma in più gli fanno fare l'idromassaggio con i cani terrorizzati. Quindi noi ti abbiamo cioè credo che si capisca già per chi ci ascolta che sicuramente tu organizzi questi party proprio tenendo presente la sensibilità proprio dell'animale prima di tutto. Assolutamente, giusto? Per me la cosa che viene prima di tutto, perché comunque Chichi Pelosi è un progetto che nasce per trasferire dei valori e una filosofia ben precisa, che è quella per il rispetto dell'animale e di imparare a essere empatici con l'animale, qualunque esso sia, che sia un coniglio, un cane, un gatto, un asino. Quindi come si fa ad organizzare una festa che però rispetta i bisogni del cane? Perché la prima cosa che chi ci ascolta può dire, ma non si rischia di antropomorfizzare, cioè di rendere il cane troppo umano. Invece tu come fai? Facci degli esempi, no, della festa ideale per un cane. Esatto, sì, vabbè, il modus operandi di solito è molto semplice, si parla con il proprietario dell'animale e si cerca di capire appunto lo stato di salute di questo cane, la razza, se è un cane, un gatto, un coniglio, la razza, quali sono le sue abitudini e per quale motivo si vuole fare la festa. Perché a me non capita solo di fare feste di compleanno, ma anche feste per magari un post-operatorio, oppure per un ritorno a casa dopo vicende particolari, oppure perché è stato preso in canile e finalmente è riuscito a armonizzarsi con la famiglia. Quindi sono tante le occasioni in realtà per festeggiare, però si fa una lunga chiacchierata e in base a quello che mi viene raccontato comincio con la parte creativa, cioè e anche professionale, perché tante volte magari c'è bisogno di un educatore cinofilo che aiuti a far comprendere diciamo delle nozioni anche basiche al proprietario dell'animale, oppure un medico veterinario, oppure sono tante le figure che servono all'interno di un compleanno se sono richieste. E lo studio, diciamo, che io faccio è proprio quello nel capire quali sono le esigenze dell'animale. E ci fai degli esempi? Allora, per esempio, ci sono stati dei party in cui avevo tanti cani e c'è stato bisogno ovviamente di un educatore cinofilo. Questa qua è un po' la base, perché non tutti i cani erano amiconi, non erano tutti e quindi bisognava avere un certo approccio. oppure a volte hai bisogno di un nutrizionista, perché comunque no ma quello sì, no, io dico degli esempi di divertimento di questi parchi. Cosa fanno i cani? Perché per esempio io ho letto qualcosa tipo voglio far divertire, perché tu non lo fai soltanto per i cani, voglio far divertire per esempio il gatto, allora gli faccio, gli preparo dei pesciolini di salmone montati su una finta canna da pesca così che loro giocano, perché così assolutamente. Io cerco sempre di fare del cibo un po' particolare, nel senso che sia bello per l'animale, ma anche utile per farlo divertire. Quindi nel caso per esempio di gatti o conigli cerco di creare dei giochini. Per il gatto cerco di farlo cacciare o comunque di farlo muovere molto, perché magari i gatti sono un po' pigrottini, quelli che vivono in appartamento, oppure nel caso del coniglio lo faccio tra virgolette anche lui un po' a fare un po' di ricerca, un po' di lavoro di naso eccetera, quindi magari si attaccano delle ghirlandine completamente fatte di frutta e verdura o altre ghiottonerie super sane naturalmente, perché lungi da me. Ma infatti mi sembra di aver capito che tu per gli ingredienti, no, di questi piatti che tu fai per il cane, chiamiamoli piatti anche se poi appunto ci sono ghirlande eccetera eccetera, prediligi la base vegetale, o sbaglio? Sì, ne faccio tanti a base vegetale, perché comunque le persone tendono a dire oddio no, la frutta, la verdura, gli animali, naturalmente escluso il coniglio, che è strettamente erbivoro eccetera, però per il cane e per il gatto non è vero che la frutta e la verdura fanno male, anzi, quindi io cerco di anche di un attimo promuovere questa cosa, che è molto importante, perché aiuta il cane e il gatto nella scoperta di nuovi ingredienti, ma non solo, anche per la salute è fantastico. Senti Sara, io devo dire, mentre stavi parlando, forse ancora perché sono legata anche all'immagine quella del canile, legata a quello che ho detto prima di Remy Gaillard, ma sai che cosa, visto che tu hai detto che ti è piaciuta l'iniziativa di Remy e che tu faresti una festa, sai, in questo momento ho avuto proprio una visualizzazione totalmente spontanea e istintiva. Adesso ti ho visto un po' come Patch Adams nei canili, quindi riuscire a fare, visto che tu fai delle cose dove effettivamente tu ovviamente sapendo che cosa mangia, prediligi un cane piuttosto che un gatto, gli prepari dei giochi in modo che possa passare un'oretta divertente, no? Svago. Riuscire a fare questa cosa qui, ovviamente in quel caso uno lo fa come beneficenza nei canili per svagare un po' questi poveri cani che sono chiusi lì e non so quanta gente va a farli fare le passeggiate, perché poi ci sono canili più messi meglio e quelli messi peggio. Esatto. Potrebbe essere un'iniziativa del futuro interessante, che dici? Certo. No, ma poi tra l'altro io ne ho fatte di queste cose, perché io le chiamo un po' compleanni del cuore, no? Sono appunto delle giornate oppure X ore che si passano insieme nei canili o nei gattili, e il mio compito era proprio di fare la festa a questi animali, nel senso farli passare delle ore felici, non solo a livello palatale, diciamo così, quindi con del cibo, ma facendoli un po' giocare, facendo compagnia e portando tanti amici, tante persone che poi magari potessero essere dei futuri adottanti. E tutto questo io lo faccio naturalmente gratuitamente, a me non interessa essere pagata. Certo, no, perché sai, io credo che se uno decide di chi sono i tuoi clienti abituali, chi è che ti chiede di fare la festa al proprio cane o al gatto? Guarda Rosita, di tutti, nel senso che non c'è un target, non c'è una persona ben definita, sono solo veri appassionati, amanti degli animali, ma come potrebbe essere la signora Maria di Palermo, o proprio c'è di tutto, non sono solamente educatori cinofili o addetti ai lavori o che ne so, oppure piccole Paris Hilton milanesi. No, ecco, appunto. No, è ecco, appunto. Il contrario della mia filosofia. Ecco, esatto, diciamolo, perché purtroppo se no dietro l'organizzare una festa di compleanno al cane o al gatto c'è subito una strumentalizzazione da chi non capisce, non vede l'ora di cavalcare quest'onda per prenderci in giro e per avere un pochino di notorietà loro oppure da parte di chi vuole ridicolizzare. Quindi in questo senso c'è sempre, poi ti posso dire, magari anche un pretesto per come si dice, passare una giornata dedicata al proprio animale. Sì, sì, no, infatti il mio terrore all'inizio, quando ho cominciato, perché ormai sono 5 anni che faccio questa cosa, era proprio di essere presa per la piccola stupidella Paris Hilton che rende ridicoli gli animali, li veste, fa tutte queste cose che sono molto americane, molto, sì, molto mal viste anche dall'ambiente, diciamo, cinofilo, o comunque anche dai gattari, dai conigliari, eccetera. Ma guarda, fino a che tu, come chiunque altro voglia fare questo tipo di cose, mantiene il focus sul bisogno, sì, dell'animale, non lo ridicolizza e organizza semplicemente una giornata col pretesto di un compleanno, con una passeggiata in più, con un premietto in più, con una coccola in più, va sempre bene. Grazie Sara, sei stata gentilissima. Grazie Sara Ricci. Per chi voglia maggiori informazioni, vada su Facebook a mettere Love Kiki Pelosi. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13:45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13:15, Container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E siamo sempre qui. Sempre qui. Allora, recentemente sono stato ospite in un convegno di pet therapy a Torino. Mm-hmm. Ho avuto il piacere finalmente di ascoltare dal vivo una persona importante che è il professor Alessandro Meluzzi, che è qui con noi, giusto? Pronto? Esattamente, buongiorno. Eccoci. A voi, un abbraccio. Ciao Alessandro, vedi un che abbraccio coevolutivo. Coevolutivo, esatto, vedi che giri anche perché l'abbraccio, vedi, già l'abbraccio è uno strumento etologico per potere, una battuta di Schultz, questa credo di Linus, potere dire a qualcuno senza le parole che gli si vuole bene, quindi è un fatto che i primati usano molto, per esempio. E pensa che, per esempio, nei nostri corsi, quando si impara a parlare con i cani, parlare senza le parole, si dà molto risalto appunto al silenzio, al fatto che tu come fai a comunicare a qualcuno che gli vuoi bene, che una cosa invece ti disturba, eccetera, eccetera, come fai a farlo, no? Quindi si devono esercitare a usare la comunicazione non verbale. Ma partiamo, posso chiedere subito, in modo, visto che sono una grande ignorante in questo, la parola, il significato della parola coevolutivo? Coevoluzione. Beh, allora, la parola evoluzione è una parola, come dire, che ha due aspetti, diciamo così, uno comune e uno proprio. Quello comune è il fatto che è tutto in movimento ed evolve. Okay. Quello proprio è il fatto che c'è nella storia della scienza un pensiero come quello darwiniano, per cui alla base della diversità e molteplicità della vita ci sta un meccanismo evolutivo, secondo Darwin, basato sulla selezione naturale. In realtà noi oggi possiamo dire che le cose sono un po' più complesse, perché le specie non evolvono soltanto selezionando progressivamente il più adattato alla sopravvivenza, anche, ma anche per la capacità di fare comunità, di cooperare, di stabilire delle simbiosi. E quindi diciamo che la visione dell'evoluzione è un meccanismo in parte selettivo e in parte cooperativo. Questo è un aspetto. Cooperativo. Cioè, cooperativo, certo. Ecco, per quello si dice coevolutivo. Beh, non soltanto. Coevolutivo, direi, aggiunge un terzo elemento a questa cosa. Cioè il fatto che anche al di là del fatto che ci sia un'evoluzione all'interno delle singole specie, che so, la specie Sapiens Sapiens, o la specie dei delfini, o quella del Canis Canis, o quella dei primati a cui noi siamo più simili, tipo lo scimpanzé bonobo, da cui ci distingue solo lo 0,4% del genoma, c'è anche un'evoluzione comune a specie che sono in una fase di cooperazione, relazione, simbiosi, in qualche modo parallelismo vitale, come per esempio lo sono stati i cani e gli umani negli ultimi 50.000 anni. Quindi in pratica sono due specie che si evolvono insieme. Parallelamente. Insieme. Cioè una influenza l'altra e quindi con non... i loro comportamenti insieme determinano delle situazioni che probabilmente, oltre ad essere guidate dai meccanismi delle mutazioni spontanee nel genoma e dalla selezione naturale, per un meccanismo, adesso dico una cosa un po' complicata, che è stato studiato negli ultimi 50 anni, che si chiama epigenetica, cioè il fatto che non c'è soltanto una relazione tra DNA, i cromosomi, le cellule e l'ambiente, ma c'è anche un percorso opposto che va dall'ambiente alle cellule fino al DNA, rivalutando in qualche modo un'idea che era stata cassata nella storia della scienza, che era quella di Lamarck, Cioè l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Certo. Cioè ci sarebbero dei cambiamenti che avvengono anche per una pressione ambientale in una specie vivente che alla fine in qualche modo per dei meccanismi complicati finiscono con la scriversi nel DNA. Certamente non è l'idea delle giraffe che allungavano il collo perché le foglie degli alberi si innalzavano sempre di più, no? Era certo. Una critica di Darwin al lamarchismo, però c'è anche questa componente, cioè alla lunga ciò che si modifica dentro un individuo lascerà qualche cosa non soltanto di culturale, il meme, ma anche di biologico nella sua discendenza. Certamente non è tagliando le code ai gatti per 50 generazioni che alla fine si avranno dei gatti senza coda, perché questo è un evento che viene dall'esterno, ma se i gatti assumono un comportamento specifico per 50 generazioni, questo comportamento specifico finirà col passare alle generazioni successive. Tipo questo l'esempio più classico che mi viene, che è stato uno dei primi esempi che mi furono detti quando andavo a scuola, è quello della sogliola, che la sogliola è da una parte scura, dall'altra chiara, perché si nasconde con la sabbia e un occhio gli è passato dalla parte di là, c'ha tutti e due gli occhi da un lato. Ha imparato a vivere sul fondale sabbioso del mare, proteggendosi dai predatori, nutrendosi di plankton e trovando un suo habitat. Certamente c'è una mimesi reciproca, no, tra l'ambiente e l'habitat, non solo quella dei camaleonti, ma di tutti gli esseri viventi. E voi pensate a quei casi citati da Darwin, tipo la Biston betularia, no? Quella libellula dell'Inghilterra, delle zone industriali, in cui alla fine scompaiono le bianche, perché soltanto le nere riescono a mimetizzarsi sui fumaioli e sui tetti anneriti della Manchester dell'Ottocento. È chiaro che non è soltanto perché sono prevalse le nere sulle bianche, perché erano più cattive, più aggressive, ma perché l'ambiente è diventato tutto nero, quindi gli uccelli predatori finivano col mangiare subito quelle bianche. Subito quello è un esempio di evoluzione puramente darwiniana, diciamo. Ma classico. Parlando del periodo che stiamo vivendo noi come esseri umani, relativo al fatto, cioè quando io ho sentito dire, sai, è vero, adesso c'è più inquinamento, l'aria inquinata, però se tu metti una persona che ha vissuto, non so, 100 anni fa, che l'aria non era così inquinata, la mette a respirare l'aria nostra, probabilmente morirebbe subito perché non si è adattata al cambiamento atmosferico, per esempio a livello in questo senso potrebbe essere. Ho detto che i meccanismi di adattamento genetico sono più lenti di un secolo sicuramente. Sì, però io ho detto potremmo anche sostenere però che ci sono dei meccanismi adattativi epigenetici, per cui per esempio il nostro sistema immunitario, il nostro sistema endocrino, il nostro apparato cerebrale, quello studiato dalle neuroscienze, si adatta molto più rapidamente ai tempi storici rispetto ai tempi biologici. E quindi, per esempio, quegli individui, per fare un esempio banale, che fossero in grado di sopportare meglio non tanto gli agenti chimici inquinanti, ma lo stress che deriva da questo fatto, certamente manterranno un sistema immunitario più efficiente rispetto a quelli che vivono in una perenne sindrome post-traumatica da stress da società industriale. Questo è un meccanismo di adattamento non genetico, ma che ha dei riflessi, avrà nel tempo anche dei riflessi genetici. Ora, tornando ai nostri amici animali, no? Spesso Rosita dice, noi diciamo sempre che abbiamo un debito storico nei confronti dei cani, perché io aggiungo, perché con i cani ci siamo coevoluti. Certo. Quindi da questo punto di vista è importante la coevoluzione, cioè ci fa capire che l'essere umano non è essere umano da solo, è essere umano e realizza la sua identità, realizza la sua specie grazie al fatto che attorno a lui ci sono animali con cui si confronta. Sicuramente, i cani sono sicuramente, li metterei sicuramente al primo posto, anche perché nella storia della nostra specie, la specie Sapiens Sapiens, che ha tutto un filum genetico che deriva dai ramapitechi 10 milioni di anni fa, che erano delle piccole proscimmie altre poche decine di centimetri, attraverso gli australopitechi e i pitecantropi. Sì, che secondo me, adesso ti faccio una battutaccia, di Sapiens ultimamente l'uomo c'ha sempre meno. Anche questo è una battuta malevola. È vero che apparentemente avrebbe poco di Sapiens, ma in realtà sembrerà strano, ma sta coevolvendo tra di noi l'Homo sapiens sapiens sapiens, cioè tre volte sapiens. Ah, alla fine sarà l'unico adattato a sopravvivere in un pianeta sovraffollato e complesso. Cioè, un uomo, per esempio, che non impari a controllare le proprie emozioni in modo adeguato tenderà ad estinguersi in un mondo come questo. Ah, un uomo incapace, come dire, di tenere bassi i suoi livelli di ormoni dello stress che modula in senso negativo il sistema immunitario morirà velocemente di cancro e di malattie infettive. L'uomo incapace di meditare, di vedere il mondo anche con lo sguardo degli altri, di proteggere la propria vita insieme a quella degli altri, è destinato all'estinzione. Quindi è probabile che... Oh, beh, ma questa sapiens... è una bella notizia, Alessandro, che mi dai, eh? È probabile, cioè... che un sapiens sapiens sapiens stia silenziosamente evolvendo tra di noi. D'altra parte, se tu guardi anche la storia delle culture, sembra strano, ma anche se noi guardiamo ai tempi storici, quelli che conosciamo, non quelli preistorici, improvvisamente in India, Ashoka, in Tibet, intorno alla catena dell'Himalaya, al Buddha, Cristo nel mondo semitico, Socrate in Grecia, improvvisamente i paradigmi che riguardano l'uomo, rispetto della vita, il rapporto agli uomini, cambiano tra i 2000 e i 2500 anni fa, quasi sincronicamente, sì, vero, senza che ci fossero dei rapporti diretti tra queste culture. Evidentemente c'è un'evoluzione in corso che probabilmente privilegia dei fattori semplici rispetto a quello della clava dato sulla testa al vicino, no? Guarda, se questa evoluzione privilegia l'uomo etico e sensibile, sono strafelice, in modo che quello non etico... è inevitabile che questo accada. Poi ci possono essere dei contromovimenti, però naturalmente valgono quei due precetti evangelici detti anche in senso lato. Ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso, e non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto. Esatto. Questa è la base della sopravvivenza. Oh, bello, grazie Alessandro, mi piace che lo ricordi. Fra l'altro, che ci avviciniamo al Natale, dicevamo io con io Angelo che tutti dicono che diventano buoni per il periodo di Natale per farsi regali e abbuffarsi, però ma poi è vero, tutto... è anche un po' vero e anche giusto un po' questo, perché alla fine vale anche quel vecchio paradigma illuminista mai superato che il massimo dell'eticità è dare il massimo del piacere a se stessi producendo al minimo del dolore a tutti gli altri. Questo è un principio basilare. Ecco, beh, producendo il minimo del dolore a tutti gli altri, però qui mi sembra che l'uomo sta solo nella prima fase, dare il massimo del piacere a se stesso e agli altri chi se ne frega. Se si manca però la seconda frase, per esempio, si è incapace di gestire un cane. Esatto. Tanto per tornare all'argomento di prima, il cane ci ricorda continuamente con i suoi bisogni il fatto che la sua tenerezza, la sua compagnia, il suo pelo, le sue leccatine, i suoi sorrisi, il suo abbaiare benevolo che scandiscono gioiosamente la nostra vita devono essere pagati anche col fargli la pappa, portarlo a spasso. Ma te ne parli come se sei, uno che vive con un cane, così? Se fossi. È così. Chi conosce la vita con i cani sa che sono un crono sincronizzatore. Aspetta, Rosetta, per una volta che ho sbagliato un congiuntivo, sta facendo delle facce. No, Alessandro, sai perché? Perché li sbaglio sempre io e lui è quello erudito in casa che non un sbaglia una virgola. Un po' di congiuntivite legge il livello. Capisci, mi sbaglia un congiuntivo e me la sbaglia in radio, capisci che io faccio una piccola ola dentro di me anche un brava, po' fuori. Brava, facciamo così. No, parlavate del cane. Parlavamo dei tuoi cani o del tuo cane. Sono un sincronizzatore emotivo degli umani, ma questo a partire dal Pleistocene, cioè da quando la nostra specie scende dagli alberi, va nella savana e comincia ad assumere dei costumi che non sono tipici dei primati, come quello per esempio di cacciare in gruppo, di avere una vita collettiva, il commensalismo, esattamente come i lupi. Allora, noi naturalmente non fraternizziamo immediatamente con i lupi, ma con degli animali più simili a dei lupi ammansiti dall'essere divoratori di scarti, come gli sciacalli e i coyote, da cui probabilmente i cani moderni derivano, no? E quindi da questo commensalismo con loro, che probabilmente si avvicinavano ai focolari paleolitici superiori per dividere le ultime scorie di ossa di erbivori cacciati da branchi di pitecantropi, nasce un'amicizia. E quel cane diventerà poi un ausilio nella caccia, diventerà poi un elemento di compagnia, diventerà una protezione nelle notti, nelle grotte, per avvisare col suo abbaiare l'arrivo dei predatori. E quindi questa coevoluzione che parte probabilmente dalla caccia continuerà poi anche nell'agricoltura, nel territorio. Pastorizia. Anche nell'agricoltura, per esempio nella difesa del fondo, del campo. Certo. C'è un vecchio proverbio spagnolo e sudamericano che parla del perro dell'ortolano, il cane dell'ortolano messo questo dell'orto e non come, non deca comer. Non mangia perché lui non mangia i cetrioli e i cavoli, ma non permette a nessuno di andare a mangiare nell'orto che è stato coltivato dal suo padrone amico. Vedi? Vedete come questa simbiosi ha una sua cosa che poi si va adattando anche ad una fase successiva alla caccia, come l'agricoltura, per esempio. L'aspetto interessante della coevoluzione è che ci spiega da una parte perché quando noi accarezziamo un cane abbiamo dei parametri fisiologici che cambiano in meglio, quindi per esempio se abbiamo la pressione sanguigna eccetera eccetera, e spiega anche perché per esempio chi viva con un cane ha un tot di probabilità di percentuale in meno di ammalarsi di... Soprattutto se soffre di una malattia cronica di tipo cardiologico, certo. Soprattutto se soffre di una malattia oncologica, soprattutto se ha seri disturbi, quindi direi che la pet therapy pratica è qualcosa di empiricamente constatabile. Sì. E non solo perché il cane ci spinge a fare una passeggiatina in più, non solo perché sincronizza le nostre vite, l'ora di andare a dormire, l'ora di alzarsi, ma anche perché la sua presenza fisica, oserei dire le sue vibrazioni, il suo tepore, il suo contatto fisico ci riportano a quelle situazioni di attaccamento a base sicura che ricordano la nostra infanzia più precoce. Bene. Hai visto, ha usato anche lui base sicura. Certo. Base sicura. La base sicura di Bolby, no? Che è la base di ogni salute psichica. Beh, Alessandro, che bella chiacchierata, grazie di essere stato grazie con a noi. È stata una gioia stare con in voi. In questo periodo prenatalizio, chissà che spero poi non che ci sentiremo presto, è sempre una gioia sentire. Ma molto molto ci rincontreremo da qualche parte, dai, con fatto grande piacere. Piacere, con immenso piacere. Grazie professore. Senti, tanti auguri di buone feste intanto. Buone feste anche a voi amici, ciao. E ai vostri amici cani. Ciao. Esatto, grazie. Ciao e a tutti Alessandro. Gli altri animali, anche i gatti ovviamente, i criceti, i passerotti e tutti gli altri. Certo, grazie Alessandro. Ciao, ciao, grazie. Un abbraccio, ciao, ciao. E voi ricordatevi sempre di scriverci a Chiedimi se sono felice @radio24. Come sentite, questa musichetta ci prepara al Natale. Questa voce fantastica di Bing Crosby. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Piatti e ciotole. Che c'è Vaira che mi fa le boccacce. Io faccio le boccacce. Mi ha appena fatto lei le boccacce. Io. Ma secondo voi in radio, rispondeteci subito che sentiamo. Chi fa le boccacce? Esatto, chi? Fra Vaira e la Celentano. Chi è che può fare le boccacce? Chi può veramente fare le boccacce all'altro? Un donnino come me. Un donnino, che carino. Comunque siamo nel momento quello proprio... fame, proprio quella, sì. L'appetito, l'orario l'appetito. È giusto e siamo assieme alla nostra mitica Mara di Noia. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mara. Ciao. Allora ricordiamo per chi magari ci sta ascoltando soltanto adesso che Mara si preoccupa di fare delle ricette buonissime che tu puoi cucinare per te e che poi vanno appena appena declinate per il cane, quindi cucini condivise, per tutta la famiglia. Esatto, la cucina su condivise. Base vegetale. Esatto, quindi questa cucina condivisa con i nostri gatti e cani di casa, giusto? Sì, meraviglioso. Sì, per me è sempre una meraviglia parlarne. Immagino, anche per noi ascoltarti e poterli assaggiare. Senti Mara, ma ci avviciniamo al Natale. Tu avrai fatto sicuramente un menù che inizia ad avvicinarsi a quella al 24-25 dicembre. Sì, sì, ci avviciniamo alle feste e quindi anche in famiglia con i nostri animali possiamo cucinare dei piatti sfiziosi, sani, a base vegetale che vanno bene per tutta la famiglia. Sentiamo, sentiamo. Allora, oggi vi propongo la polenta alla zucca con ragù di lenticchie. Madonna, che bontà. Sì, infatti l'orario è giusto. Vi occorrono 250 grammi di farina di mais, quella per la polenta, diciamo, istantanea, 300 grammi di polpa di zucca, 120 grammi di lenticchie, 700 grammi di passata di pomodoro, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, una carota, una costa di sedano, due foglie di alloro, due foglie di salvia, un rametto di rosmarino, un cucchiaio di olio, sale, sempre un pizzico di sale un cucchiaino di zucchero di canna e del lievito alimentare in scaglie. Uh-huh. Ovviamente è una ricetta un pochino più elaborata visto il periodo. Certo. Allora, dobbiamo tritare il sedano, la carota e le erbe aromatiche finemente. In un tegame scaldiamo l'olio di oliva e facciamo rosolare questo battuto. Alla fine, questa sorta di soffritto in cui avrete notato non c'è la cipolla dovrà risultare abbastanza appassito. Unite le lenticchie a questo battuto e le fate insaporire per un paio di minuti. Aggiungete il concentrato di pomodoro e proseguite per circa un minuto. Cuocere le lenticchie a fiamma bassa, tenendo il tegame parzialmente coperto per circa 50 minuti. Trascorso questo momento, controllate la cottura. Le lenticchie devono essere tenere, ma non completamente disfatto. Il sugo avrà un aspetto addensato molto simile al ragù a cui siamo abituati. Riducete la zucca in tocchetti e la cuocete a vapore per circa 10 minuti e poi la passate o nel passaverdura in un frullatore. Portate a ebollizione un litro abbondante di acqua, leggermente salata, sempre con il famoso pizzico. Aggiungete la crema di zucca e la farina di mais, seguendo le indicazioni riportate normalmente sulla confezione. Servite la polenta ben calda, accompagnata dal ragù di lenticchie, e potete spolverarla con del lievito alimentare, che piace tantissimo ai nostri animali, ma anche a noi, e decorare con delle foglie di salvia. Che bontà! Questo è una bontà per il nostro piatto sicuramente, ma io l'ho provata per i nostri animali, fanno le capriole dalla felicità. Certo, ci credo, mica solo loro. Potete mescolarla per gli animali con dei fiocchi di cereali o dei soffiati, in modo tale da aumentarne la consistenza, ma non vi accorgerete, perché in un secondo soprattutto i cani la finiscono. Che bontà, è fantastico. Me la voglio già riascoltare io stessa sul podcast. La cucino io. Va bene, voglio vedere. Voglio proprio vedere. Senti, Mara, fantastico. Come al solito, ci lasci sul finale con l'acquolina in bocca. Però, oddio, è ok il prezzo giusto? No, scusami, il pranzo è servito con Corrado. Il pranzo mica è tanto servito qui. Ascolta, visto che ci avviciniamo a Natale, però riesci a farci un'altra ricetta così, insomma, visto che a Natale si mangia di più. Certo. Allora, io vi stupisco, perché come vi sempre vi propongo un dolcetto che va bene sia per noi che per i nostri animali, perché anche loro ogni tanto, con gli zuccheri adeguati, possono avere questa coccola. E questo riso lo facciamo a base, questo dolce lo facciamo a base di riso basmati. Quindi vi propongo riso basmati alla vaniglia con pere e castagne. Riso basmati alla vaniglia con pere e castagne. Wow! Allora, vi serve mezzo litro di latte di soia, a cui aggiungete una bacca di vaniglia, un pezzetto di stecca di cannella. Quindi a un certo punto eliminate le spezie, unite 100 grammi di riso basmati cuocendolo per 25 minuti. Sì. Il riso basmati è dolce di natura e molto profumato. A questo punto aggiungete 50 ml di sciroppo di acero e una grossa pera sbucciata e tagliata a dadini. Proseguite la cottura per 5 minuti, versate il composto in 4 ciotoline e lo lasciate raffreddare. Saltate poi in padella 8 castagne già cotte e pelate con una noce di, potrebbe essere un burro di soia, e 2 cucchiai di zucchero di canna fino a farle caramellare leggermente. Sbriciolate grossolanamente con una forchetta e le distribuite sul riso dolce. Ovviamente per la ciotolina umana questo condimento sarà nella quantità che voi desiderate. Per quanto riguarda i nostri animali, ci possiamo fermare al riso con le pere e magari mettere proprio mezzo cucchiaino di castagne dolci per via dello zucchero, semplicemente per quello, perché poi di norma nessuno lava i denti ai nostri animali, anche se si dovrebbe fare. No, io non li lavo, anche perché mi sembra una forzatura. Quindi... Anche a me, quindi evitiamo magari grosse quantità di zucchero, e quindi per loro un cucchiaino li gratifica molto e non corrono nessun rischio. Che ne dite? Mamma mia, buono. Devo dire, la mia preferenza ricade sempre sulla polenta alla zucca e il ragù di lenticchie. Sì, certo. Però voglio dire, insomma, una cosa non esclude l'altra. No, assolutamente. Ma su questo soltanto perché tra dolce e salato io preferisco sempre il salato. Questa è la mia preferenza personale. E, cioè, è bellissimo. Allora, vi ricordiamo che potete andare sui podcast di Chiedimi se sono felice sul sito di Radio 24 per riascoltare la ricetta nel caso in cui non aveste avuto modo di prendere appunti. Oppure sul blog... sul sito di Mara Di Noia Vega Chef. Senti, io invece fra dolce e salato preferisco dolce e salato. E con questo sì, tutte e due, va bene, tutte e due. Senti Mara, sei come al solito deliziosa, grazie mille. Adesso grazie non vediamo l'ora di salutare tutti e correre a pranzo. E correre a cucinare. Esatto. E ci risentiamo con tutti, anche con Mara Di Noia domenica 25 prossima, dicembre per Natale. Sarà proprio il giorno di Natale, vi faremo compagnia. Un abbraccio, ciao Mara. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao a tutti e noi insomma veramente ci vediamo per Natale, mi raccomando, cercate di fare in modo che questo Natale sia più etico del solito, sotto tutti i profili. Ciao. Ciao, grazie.